avanti. Ciao Franco, sono Franco, Giulio, carissimo, come stai? Ciao Franco, tutto bene? Sì, sì, ho acceso a scaldare un po' i motori, ogni tanto, dai. E voi? Come va la frequenza? Ehi, la frequenza, come sempre, poca gente che si presenta di tanto in tanto, qualcuno, ma non più di tanto comunque. Le ascolti sempre bene? Sì, le cose sempre bene, sì, certo. Questo sì, appunto, mi meraviglia soprattutto quello, visto considerato che adesso sarebbe proprio il momento di stare tranquilli, nessuno si presenta, poca gente insomma, ecco. Cosa vuoi fare? Io sto uscendo come sempre? Sì, sì, va benissimo, non c'è problema. Anche tu, sempre alla grande. Ok, io sempre nella medesima condizione, niente di più, tanto cosa vuoi fare? L'antenna è sempre al posto iniziale di quando avevo fatto quella autocostruita, non l'ho mai più spostata, magari se la sposto va anche meglio, però visto considerato che non è il caso, va bene lo stesso così. No, va bene, arrivi benissimo. Ma io qui l'ho dovuta scendere giù perché c'era di nuovo, come dire, se ne era sceso un elemento, e quindi vabbè, faccio in fretta, ci metto 5 minuti, la sollevo e la rimetto in posizione, dai, ci arrivo con una mano dalla finestra, dai. Ok, sì, in effetti, vabbè, ogni tanto un po' di manutenzione ci vuole. No, io la verità da quando l'ho messa non l'ho più toccata, è sempre lì, piazzata nel poggiolo, cioè nel terrazzino della mansarda, e niente di più, nonostante che lì avrei tutte le comunità di questo mondo per poterci lavorare, ma non è il caso, non mi ha dato nessun fastidio, per cui sì, quando c'è vento oscilla un po', anche un po' troppo magari, però va sempre bene, non c'è problema. È proprio fatta così l'antenna, fatta apposta per flettere, piegarsi, diversamente da quella in alluminio, molto flessibile questa, cioè quella che c'è tu, anche la canna da pesca. Appunto, la canna da pesca non si smentisce mai, va bene, va, altro che, adesso c'è una nuova antenna, che qualcuno se l'ha piazzata e sembra che vada molto bene anche quella, senza radiali, è tutta in alluminio, la G-Polo, non so se l'hai mai sentita o se hai visto qualcosa sul computer, non lo so. Beh, conosco la J-Pole, non so, no, così grande non l'ho mai vista, per la 27 non l'ho mai vista. L'ho vista per, diciamo, per UEV, HF, da. Ok, sì. No, questo è proprio per la 27, deve essere un'antenna di nuova produzione, probabilmente. Ma va bene, perlomeno, sentendo l'amico, va molto bene. È più lunga anche della Game Master. Sugli 8 metri o c'è qualcosa forse anche, e anziché essere 5 ottavi è 7 ottavi, per cui dovrebbe avere un vantaggio sia in trasmissione che in ricezione. No, non la conosco. E chi la produce? Chi la produce, dai? Questo non te lo so dire, perché non mi ricordo, ma io avevo visto un video e mi ha subito, diciamo, fatto una certa impressione, detto, questa è un'antenna che vale, ho pensato subito. Poi ce l'ha qui un amico a Sassari e va molto bene, va molto molto bene. Quindi diciamo, fino a un certo punto sono il doppio elemento, dai. E poi il terminale sarà solo unico. Sì, al doppio elemento, praticamente la possiamo chiamare l'articolo IL, perché ha lo stilo corto e lo stilo lunghissimo, dunque l'articolo IL lo possiamo chiamare, no? No, ma va bene, è tutta una in cose, in alluminio, così, ma non è, io non l'ho vista, l'ho vista solamente al computer, ho visto un video e devo dire come l'hanno illustrata, come hanno fatto capire, è un'ottima antenna. Quindi è il commercio, dai, non è una cosa autocostruita? No, no, assolutamente, è una cosa fatta di serie sicuramente, per cui è anche più costosa della Game Master, oltretutto. Adesso non ricordo bene se era 166, boh, una cosa del genere, non mi ricordo perché avevo letto anche il prezzo, avevo letto, ma comunque era come prezzo più costosa della Game Master. Siamo lì, dai, anche la Game Master già se la fanno pagare. Invece quell'altra, la 580, diciamo, l'erede della Mantova, non mi ricordo, aveva il nome della persona che l'ha costruita, dai, che l'ha inventata, non mi ricordo il cognome di questo tipo qua. Comunque l'abbiamo vista da poco in qualche video. C'è la Mantova, Turbo, c'è la Mantova 1, Mantova 5, la Mantova Turbo. Sono quelle le tre, la cosa della cosa della chi non lavora. Adesso mi sfugge anche il nome. Boh, non me lo ricordo, vabbè, dopo te lo dico se mi viene in mente. Boh, chi la faceva? La Lem, non lo so. No, questa era proprio un'altra marca, a quanto pare c'è stata una scissione in un'azienda e questo tipo infatti gli ha messo il nome all'antenna, gli ha dato il suo cognome se non sbaglio. Ed è una 5 ottavi bella massiccia, ne parlano bene, bei radiali, mi sa che siamo radiali da 2,75 in alluminio addirittura. Ah sì, ho capito di cosa stai parlando, della Grassiuli, l'antenna Grassiuli, erano prima due parenti, non so se fossero cugini o fratelli che erano insieme, poi ognuno è andato per conto suo e hanno costruito questa antenna nuova, questa Grassiuli, dicono che sia molto molto buona, però insomma... dei radiali del 2075 sono lunghissimi, torniamo indietro di 40 anni quando esisteva la Grand Prix con i radiali lunghi di 2,75 sia quello centrale che quelli orizzontali a 45 gradi, dai. Il problema infatti è quello, perché quelli erano a 45 gradi verso il basso, questi sono diciamo orizzontali rispetto al piano del tetto, quindi devi avere uno spazio non indifferente. Sì, premesso che sarà sicuramente un'ottima antenna anche quella, ma io veramente non la comprerei mai. Io non la comprerei mai, troppo ingombrante, un'antenna che secondo me non avrebbe senso installare un'antenna per la 27 di quelle dimensioni, cose quasi assurde per come la vedo io. E io sono sempre orientato su un unico stile, come può essere appunto la Game Master oppure questa G-Polo che è ottima veramente, anche quella è un unico elemento, poi c'è l'altro corto, che probabilmente l'elemento corto non lo so a cosa serve, ma probabilmente io ho pensato che fosse quello lì il rinforzo dello stilo praticamente, perché poi c'è una specie di tirante che si collegano tutti e due insieme e ho pensato quello, ma che sia stato costruito come rinforzo dello stilo centrale, di quello lungo, perché essendo oltre 8 metri sono tanti. C'è stata una portante registrata. No, come penso io invece o risuona in più frequenze, tipo la G-Polo, quella per diciamo per i 144 e 440, dai, più o meno una cosa del genere. Vediamo un po', facciamo un po' di tempo se qualcuno vuole entrare, se lo riprendi tu giù. È il radiatore dell'antenna, ero io, non stavo uscendo. È il radiatore dell'antenna, senza quello l'antenna non funziona. Buonasera. Ciao carissimo Claudio. Quindi il radiatore, quindi quello che è proprio che radia il segnale. Esatto, è tipo direttivo. Senza quello l'antenna non funziona e poi fa praticamente a corda l'antenna, perché io quando ho comprato quel tubo da tutto giù c'erano 16 stazionarie. Allora mi sono letto il manuale e tiravo su sino a 2,20 m, 21 e qualcosa, e le stazionarie sono a zero completamente. Che capito? E poi è collegato praticamente con una barra in acciaio inossidabile e due isolatori da una parte e dall'altra, e vi devo mandare la foto. Due isolatori da una parte e all'altra che congiungono al tubo verticale, capito? È così, quella è un'ottima antenna, questa è un'ottima antenna, io ripeto, a prove tecniche di trasmissione, la manta va solamente in tasca, lasciamo perdere la Game Master che è un tubo di plastica con un pezzo di vibrato, questa è fatta in modo particolare, solo che se non hai spazio o devi essere un po' basso come posizione, perché ad esempio io dove abitavo prima questa non la potevo mettere, perché è troppo alto, capito? E questa può irradiare da terra anche un metro, tu la metti un metro in terra e la tiri su e lei sta funzionando alla grande senza stazionare. Io ce l'ho a 4 metri dal suolo praticamente, già l'hai vista o fra dove è montata la manta, però lì a fianco. Va bene, buonasera a tutti, riprendi Giulio, io mi assento, ci sentiamo dopo. Ok, ciao Claudio. Sì, io ripeto, avevo solo visto un video, così direttamente non l'ho mai vista con l'antenna, però dal video che ho visto mi sono reso conto che sicuramente è un'ottima antenna, ho capito praticamente. Allora lo stivo centrale praticamente fa parte della parte elettrica dell'antenna stessa. Io pensavo invece che quello lì magari è una specie di sostegno creato apposta con quel tirante, che poi quel tirante cos'è? Rigido? O è flessibile? Com'è quel tirante, Claudio? Poi mi sa che si stava assentando. Poi senza radiali sicuramente, se è come questa, come le nostre antenne, disturberanno molto meno TV wide. Quello è da vedere, suppongo di sì, però suppongo che dovrebbe andare bene, però è da verificare, perché la Game Master, quella sicuramente per quanto riguarda le interferenze è eccezionale, non sappiamo. Quella sicuramente sarà fatta anche quella nella medesima condizione di non disturbare, eccetera, non lo so, bisogna vedere come l'hanno testata, non lo so, la verità. Si tratta sempre di provare. Vabbè, comunque, teniamoci questa, io mi tengo questa e mi va benissimo. Se non tanto male, mi avrei lasciato la manta a tubo, mi si è considerato che ce l'ho sempre appoggiata da una parte, conservata, bella, pulita, tutta a posto, e messa da parte. Allora, se capita, può darsi anche che me la do qualcuno. Va bene, dai, riprendi. Sì, io avevo cercato di ripararla quella là, ma non l'ho mai provata. I radiali ce l'ho qua a casa, i radiali col piantone. Invece il resto dell'antenna è giù in campagna lì alle punti. L'ho tagliata in due pezzi adesso perché non sono riuscito a muovere i raccordi, quindi l'ho tagliata in due, adesso devo fare un innesto per innestarla, poi dopo l'ho tagliata, invece di essere da 6 metri diventano due pezzi da 3. Ora devo cercare un tubo o che entri dentro o che sia più largo da fare tipo un collare esterno. Sì, ho capito, già è fattibile quel discorso lì per poterla utilizzare, perché tu l'hai tagliata per poterla trasportare, perché non era possibile portarla tutta lunga. No, io sono riuscito a smontarla, la mia, e ho lasciato solamente un pezzo intorno ai 2 metri, 2,50 metri, che ci sta benissimo anche dentro la macchina, non è un problema. Per cui quello non ho voluto rischiare, perché l'ultimo pezzo, praticamente l'ultimo tubo, diciamo, quello non ho voluto rischiare, perché ho visto che era abbastanza ben fissato, fatto basta vedere se io questo mi metto a toglierlo, magari lo rompo, allora ho lasciato, fatto, ma ora lascio questa altezza, sarà intorno ai 2 metri, 2,50 metri massimo, per cui in qualsiasi momento, anche dovendola dare, uno se la mette dentro la macchina, perché ci sta tranquillamente, non c'è problema. sta bene così. Comunque è nuovissima, nuova, anche il piattello è nuovo, senza ruggine, senza niente, insomma, ecco. L'ho sistemato, l'ho messo da parte e lì si sta riposando, insomma. Beh, è sempre un'ottima antenna, poi, caspita. Io con la Mantova ho avuto sempre ottimi risultati. Uno me l'avevano fregato dal tetto, te l'avevo detto. Avevano piegato il tubo tagliando due tiranti. Col terzo hanno tirato, quindi veniva facile da piegarsi il tubo. L'hanno portata quasi a terra, l'hanno svizzata dalla bulloneria. Tagliato il cavo, l'RG8 c'era all'epoca. E se l'hanno portata via di notte, no? Addirittura, capita, all'area, ma nell'abitazione dove sei adesso è successo questo? No, negativo, è successo dove abitavo da ragazzo, giù a, siamo qui a Gorizia, dai. L'antenna era messa in un vertice, in una specie di casetta esterna alla casa, una cucina che avevamo esterna dalla casa, una dépendance. Ok, ho capito, vabbè, lì già era facile magari. Certo, vabbè, comunque. Purtroppo, qualche altro lo stesso, gliel'hanno agganciata con una corda, gliel'hanno tirata e gliel'hanno distrutta. Ma sto parlando di qualcuno che abitava lì, verso la zona Gesù Maria Giuseppe, verso Canica, dai, ma non facciamo nomi, anche perché so che aveva fatto il giochetto, no, comunque, cosa da non fare, in poche parole. Purtroppo ci sono anche questi elementi che certe cose le fanno. Devo ti dire, questa non era, ce l'avevo già qualche anno, dai, non era vecchia, un'antenna, qualche anno, per ora è in ottime condizioni. E hanno fatto così, hanno tagliato due corde, diciamo, erano corde in nylon intrecciato, una l'hanno lasciata e con quella lì hanno tirato fin giù. Praticamente sono entrati dalla campagna a fianco alla nostra, quindi piegando il tubo loro hanno lavorato dalla campagna adiacente alla nostra, tranquilli. Poi vabbè, con un paio di bulloni la sviti subito, era tutta ben ingrassata, poi non hanno avuto difficoltà a smontare tutto, il radiale, cose varie, la tenevo bene, dai. Ok, capita, ce l'hanno portata via addirittura, a riuscire a rubare l'antenna, non è possibile, cos'è l'altro mondo, purtroppo succedono anche queste cose, vabbè, rompono le facce a loro, cosa vuoi che ti dica? Sì, no, ma io ripeto, la Mantova tubo, perché l'ho tolta? L'ho tolta sempre per il solito motivo, perché la notte quando c'era vento fischiava e solo quello. Se no per me era un'ultima antenna, veramente. Sicuramente come presenza di antenna di gran lunga superiore alla Game Master, perché la Game Master, vedendola, è una canna da pesca con un pezzo di filo dentro, e se tu pensi a quello che costa, costa addirittura della Mantova Turbo, perché la Mantova Turbo io l'avevo pagata 145 euro l'avevo pagata, mentre invece la Game Master costa 160 e spedita diventa 170, se che non è poco, è uno comunque così, ti fanno pagare il progetto, ecco, più che altro. Sì, è quello che volevo dire io, mi hai tolto le parole dalla bocca, ti fanno pagare lo sviluppo e questi ingegneri bisogna pagarli. Comunque il risultato è ottimo, cioè, se pensi, sembra così, a dirlo così, due fili messi in croce, ma insomma non è proprio così, dai. No, diciamo che poi viene molto bene a lavorare, da solo la puoi tirare su tranquillamente perché è leggera, questo sì, non hai problemi di radiali che non ti si rompono perché non ce ne sono, per cui va bene così, i volatili non si possono posare sopra i radiali perché non essendoci come fanno. Io la verità sono soddisfatto, nonostante che io abito in una zona abbastanza bassa rispetto a Sassari e poi ce l'ho anche nella parte più bassa della casa, che io ho sempre pensato di spostarla, che poi non l'ho mai fatto, visto e considerato che mi va bene lo stesso, visto che mi sentono e non c'è problema. Magari mettendola più in alto dove la prima, dove c'era la Mantova, ha proprio un'eccezione, che è quello che mi interessa, non tanto la trasmissione, perché non me ne frega niente a me di arrivare alla stazione che mi riceve Santiago 9 o Santiago 9 più 10, non me ne frega niente, posso arrivare anche Santiago 5, basta che mi sentano. Però stia dando il discorso anche la ricezione, perché essendo più in alto ha bisogno di alle volte di un po' più di ricezione, quello è il problema. Sì, è quello che manca a me qua, è proprio la ricezione. Io a volte a me mi sentono, però è inutile che a me mi sentano e io non senta loro, quindi mi dà fastidio a volte se c'è qualcuno tipo Alghero, evito anche di entrare, perché intanto sarebbe un problema. Alghero, comunque l'altro giorno uno lo sentivo a malapena, ma lo sentivo, poi riusciva a capire anche qualche parola, non mi ricordo adesso il nome, può essere un Mirko, lo sentivo leggermente. Ok, sì, Mirko di Alghero, infatti l'altro giorno, rispetto ad altre volte che lo sentivo abbastanza discretamente, l'altro giorno non sono riuscito a collegare con lui, avevo capito che era lui perché ho sentito qualche piccola frase, quello sì, però non avevo questa grande ricezione quel giorno, c'era più QRM del solito, per cui non ho potuto continuare il QSO con lui. Però devo dire che, ripeto, non lo so adesso per quale motivo, con la Mantova Turbo sentivo molto di più, ad esempio ascoltando in 40 metri, avevo dei segnali molto più alti, addirittura anche a livello di 9, 9, 10, 9, 20, tante volte, mentre invece con questa, ascoltando con questa, al massimo che posso ottenere quando sono spinti anche le trasmissioni, massimo Santiago 9, se no di solito 5, 6, 5, 6, 7 è il segnale che mi arriva da fuori, questo per quanto riguarda le 40.000. Magari con i radiali c'è un bel piano di massa, riesci a essere più sensibile. Io voglio fare una prova, possiamo farla, non so se è legale, ma sui 25 qualcosa, 25-600, perché vedo che l'apparecchio dà molti più watt, per vedere se il segnale cambia, un passaggio e basta. Sì, a 25-600 si può andare, no? Non c'è problema, possiamo arrivarci, certo. Lasciamo il tempo di arrivarci, se tu sei canalizzato, io no, in questo momento sto andando a sintonia continua, per cui lasciami il tempo di arrivarci, ok? Poi ti chiamo io quando ci sono. 25-600 hai detto? Aspetta, però memorizzati il segnale prima, vedi il segnale, facciamo, mi sembra che io arrivo 25-615. E allora facciamo così, 25-615, sì, il segnale tuo è 9 più 15 in questo momento, ottimo segnale veramente, la radio è spettacolare, molto bella. Ok, adesso proviamo, anche tu mi darai il tempo di accordare un po', perché cambia un po' di frequenza, ok, 25-615. Va bene, ok, ti chiamo io per la recessione. Ok, intanto inizio a accordare. Hola. Hola. Tu sei lui. Ciao Rob. Va bene lui, sto a posto. Tutto a posto, niente in ordine. Sì, già. No, io non ci sono detto, lascia vedere se vedo anche uno. Sì, mi sono andato a portare il cane, mi sono fatto lì un salto. Praticamente rimane lì, di fronte al Marsanna, c'è cioè una giostrina che ho piazzato. Sono rimasto un po' lì, ma il cane stava a teme e non me ne sono andato. E approfittare così, perché domani è previsto un po' di acqua. Nessuno si è sentito lui. Sì, c'era Giulio e Franco, si sono spostati in un'altra frequenza, a 25 mi pare. Via. Ma per quella questione là, fretta, no? No, perché ci mancherebbe. Sì, allora, comunque penso di... Oh, vabbè, salvo complicazioni, nel senso che non mi dia problemi nell'installazione. Che magari nel trasloco da Claudio non abbia danneggiato l'hard disk, sai, purtroppo succedono queste cose. Speriamo bene, dai. Cosa ti volevo dire? Mi hai detto tu il fatto della USB, non USB scusa, della Wi-Fi, che difficoltà c'è perché se non hai la pennina inserita? non ho capito, scusa. Tu mi hai detto stamattina se c'era appena la wifi, ho detto no, non c'è, l'ho tenuta io, è rimasta in officina. Ma senza di quello perché non riesci a farlo attivare la wifi? Sì, vabbè, la prima è partito tutto un lavoro, installati tutto, capito? Ma sì, perché metto la pennina quando me lo dai, non funziona la wifi. Sì, sì, è stato installato, ma hai giusto parlato, l'ho pronto, vabbè. Non capisco. Come stai lì, per detto, in cui tu è uguale. La inserisci, tanto te ne accorgi, la autoinstalla, poi vai nella cosa delle connessioni e ti metti, devi mettere la password del modem. Non lo so, perché è una cosettina piccolina, proprio una chiavettina minuscola. Speriamo che ci siano le informazioni nel coso, perché mi è andata così Claudio attaccata, ma per me la quella chiavetta è pulita. Su, mi ti ho scusato, mi stavo mandando un messaggio, Roberto, cosa hai detto? Ho detto che io pensavo che la chiavettina fosse una cosa automatica, cioè ce l'hai o non ce l'hai? No, nuovi computer ce l'hanno integrata la scheda wifi, capito, Robe? Invece queste qua sono schede USB. Ma cos'è? Un'antennina? Una cosa piccolina, mi pare per un'antennina. Guarda, l'ho aperto una busta, non ho manco guardata, ci credi? Sì, quello comunque è un bel PC, dai. Per quello che devi fare tu, ce n'è per i porci, dai. Poi anche per navigare, attenzione. Poi se devi fare roba pesante tipo giochi, allora no, non puoi pretendere. Comunque, allora smonto tutto. Smonto l'avvento, la tripulisco l'avvento, la busta più tranquillo e facciamo un bel lavoro. Se le cose si fanno bene, altrimenti non si fa. Assolutamente, una cosa ti volevo dire, siccome io devo utilizzare l'ingresso, quello mini jack, che sia attivo quello lì nel loop. Mini jack è quale? Audio? È audio, la cosa audio devo prendere. Per forza che è attivo, perché? Se è attivo sì. No, che magari anche il spinotto che non funziona, cosa del genere, prova anche quello. Io provo tutto, vabbè, io faccio prima quello che devo fare, la pulizia, tutto quanto, poi lo piazzo e poi inizio a installare tutto quello che c'è da installare. Ti faccio un esempio, ma comunque anche con Windows 7 dovrebbe funzionare l'audio, perché siccome Windows 7 non fa più aggiornamenti, allora in conseguenza non... i driver li trovi e no, bisogna di andare su internet, scaricare, invece quando c'hai gli aggiornamenti, installi tutto, ti installa tutto in mezzo agli aggiornamenti, invece Windows 10 non c'è problema, tutto lì e quello che manca scarica e butta dentro. Ma tu devi togliere tutto, anche Windows 7 adesso, devi fare svuotare tutto. Per forza. Non c'è, per dire, per fare Windows 10 aggiungi le applicazioni o quelle cose che ti chiede. No, io però le voglio il tutto. Cancello Windows 10 e installo Windows 7. Perché se io lo scarico sopra non va bene, capito? Cioè tu a salvarmi, già mi arrangio io. Ripeto, sono complicazioni. Dai, io ti ho detto non ne capisco niente. È già tu si va accendo sul computer. Vabbè, comunque. Registrato. Può succedere, a me è successo che magari, ti faccio un esempio, no? È capitato che c'è Windows 7 sotto, un computer fisso o anche portatile, è lento, proprio lento, lento come tra la giogga. Cosa succede? Che magari ti andavi a installare Windows 7, non te lo facevo installare, ti davo errore, magari perché c'era l'hard disk danneggiato. Aspetta che c'è un break, avanti il break. Ti sento bene di radio, però c'è un rumore tipo... No, rimani a parlare, stavo facendo discussione di un computer e basta, parla quando vuoi. Vai Luca. E io lo sento basso a Claudio, mi sento, lo sentivo bene qua. Segnale 1, ciao Claudio. Cos'è il suo? Sono andato a Calabrandichi, no, bello. Vabbè, i colori non erano belli perché io c'era un'altra cupa. Era bello perché c'era sopra Tavolara, si chiama il cappello di Tavolara. Le nuvole proprio ti coprono a Tavolara, tipo un cappello, un sombrero, bello. La giornata non era bellissima nel senso perché la coperta però si stava bene, non c'era né caldo né freddo. C'era gente al mare, mi prendi sul bagno, un po' di gente. Ok, vai Luca a te. Ma è bello, un po' aumentare poco a poco, Cla. Adesso mi è fatto da 1 a quasi 4, cioè è migliorato, però vabbè, la mia posizione purtroppo, io ho l'antenna nel terrazzo, la ringhiera del terrazzo e anzi, già arrivi, comunque già è migliorato, dai, ti ascolto un po' meglio. Tu hai fatto da 9.15 a quasi 9.20, sei salito. Infatti ogni tanto ti fai sentire, vabbè io così dai, adesso sto aspettando la 25 e poi stasera me ne esco un po', niente, sto aspettando lei, poi vado, mi lavo, mi cambio, poi si cenerà verso le 8 così e usciamo un po', giusto per non stare a casa, e poi niente, giusto per ammazzare la serata, se no stai qua seduto nel divano a guardare la TV, una paranoia, avanti roba. Ehi, ricordate perché domani ci alziamo un'ora più tardi perché dobbiamo andare un'ora indietro con Lucio. Eravamo qua ma ci siamo spostati un attimo, siamo ritornati. Vai Roberto, buonasera. Forse ti ho parlato sopra giù, no, stavo dicendo ciao giù. Adesso ricordiamoci che bisogna spostare un dietro di un'ora all'orologio, ci avremo, anche se non è mai successo, un'ora in più di sonno, dicono. Ok, di nuovo a te Giulio. Ok, no, eravamo qua, dai, siamo ritornati. C'è Gianfranco e anche Franco su questo canale, perché stavamo facendo la prova a 25, dai, 25 e 615. Siamo ritornati qua. Vai Gianfranco. Ciao Luca intanto, vai Gianfranco. Sì, ciao Roberto, buonasera, ne abbiamo approfittato per fare una prova di lì per sessantenne, diciamo così, tutto lì. Avanti Franco. Sì, capo, ciao Roberto, l'hai sentito, ciao anche Luca. Avanti Roberto, buonasera. Sì, buonasera a tutti, c'è anche Claudio D'Amuro, se ve lo rilascio, avanti Claudio. Vabbè, una cosa al volo a Claudio, prima di chiudere, mi hanno mandato quella roba, quella associazione, me li ho stampati a colori, tre fogli diversi, bello, interessante, dai. Ok, poi cosa ti mandano? Qualcosa di cartaceo loro? Hanno mandato tre pagine dove c'è il nominativo, c'è di Sassari, poi c'è Simone della Sardegna e poi ce n'è un altro, tre cose mi hanno mandato loro. Non so cosa intendi tu, fammi vedere, perché tutto c'è scritto sempre International DX Group, Whisky Mike 165, Whisky Mike 105 Roberto, e poi Special QSL Card of Sassari City. No, quello che mi hai mandato tu, uguale, quello che mi hai mandato tu, sono le QSL, non è l'attrezzato. Non so, ma te l'ho mandato via posta o via mail? Concludiamo, che siamo monopolità. Esattamente quello che mi hai mandato tu me l'hanno mandato a me, identico, quelle 4, 3 o 4 QSL, ma non me ne metto se sono 3 o 4. Va bene, ok, facciamo riprendere a Luca, che era il primo in attesa, avanti Luca, poi Gianfranco, Giulio e Franco l'altro. Vai Luca, Luca forse deve uscire, che c'è poi Gianfranco. Sì, io sono qua, però devo fare avvitare una cosa un po' delicata, un Bluetooth. Quindi sono all'ascolto comunque. Allora vai Giulio e poi Franco. Ok, d'accordo Gianfranco, siamo qua comunque, quando è finito siamo qua. Sì, certo, no, già sono cose belle, vi stavo ascoltando per quella storia lì, va bene, ma per solo che solo quando c'è propagazione ti puoi collegare, Claudio, intanto ti saluto. Poi dimmi Claudio, quando eravamo a 25, come arrivavamo? Allo stesso modo di adesso oppure c'è una differenza sia per me che per gli altri due amici che erano su quella frequenza poc'anzi? Cacchio, la Juve 2-0 sta perdendo. Una vergogna. Claudio, tanto ti saluto, buonasera anche a te. Complimenti anche per la radio, che arrivi una radio fortissima, il segnale è sempre basso, però la radio è molto forte e amplificata. Complimenti ancora, avanti Claudio. voi siete ascoltate con 2 watt su per il 9 sempre, ma ovviamente sono più aperto di loro, oltre che più vicino naturalmente. Ok, e Giulio, però lui mi sta dicendo, Claudio, con questi amici di Marsala, lui parla tutti gli anni in digitale, utilizzando quel sistema digitale. Claudio, sì, beh, sicuramente è interessante anche quello, ma in digitale io il computer non lo so usare, per cui non ho mai avuto grande passione per il computer, o per vedere, non so, il giornale, oppure, che so io, le partite. Magari non lo so su quella frequenza lì. Le trasmissioni sportive. Per quanto riguarda il fatto della Juventus, vabbè, una vergogna, veramente, guarda, infatti non ne sto guardando, non ne guardo più, la partita della Juve non ne guardo più, vabbè, mi fanno schifo, mi fanno, una società che è caduta così in basso che non riesco a capire come mai siano diventate così tanto fragili praticamente, in tutti i sensi, soprattutto mentalmente, ma comunque lasciamo perdere, freghiamoci. Avanti, Franco. Sì, dite, con chi sta giocando la Juve? Con Verona sta perdendo 2-0, io ho visto al 14esimo erano già 2-0, ha acceso al 14esimo e ha fatto un Eurogol con il Verona, li ha messo all'incrocio del pane. Comunque c'è anche Claudio, avanti Claudio. No, era solo, vi sto ascoltando, ma no, rimango in quelli che c'era solo una domanda, se questa cosa, questa roba che fate, è una cosa che appunto... come si può dire, una cosa legale, una cosa, perché sembra fuori bando dal canale 40, mi sembra che sia illegale, non lo so, era solo una domanda, giusto così per capire, che è una cosa molto interessante, ma sicuramente non è cosa per me, perché io, avendo la patente, non è che mi posso allontanare molto dai 40 canali. Buonasera a tutti, comunque il cambio per Claudio, dice se sa qualcosa inerente a questo suo nuovo programma e poi rimango in Quirix. Scusate, sono al telefono. Sì, riprendo, poi vi lascio. Beh, sicuramente è illegale, perché come sappiamo tutti a noi ci hanno segnato il canale 1 al canale 40, senza nessun modo, né digitale né niente. AM, FM, poi hanno aggiunto anche l'SSB, qualche canale, qualche radio appunto di quelle omologate. Era giusto per capire, perché io ho la radio direttamente digitale, quindi non è che faccio molta fatica, attacco il dignope al computer e faccio quello che devo fare, era solo una domanda. Va bene, ok, vi lascio e ci sentiamo più tardi. Avanti Giulio, volevo riprendere. Sì, no, non mi interessa, non parlarmi a Ivo, perché intanto non mi sto neanche guardando. Ci sentiamo dopo, riprendi Giulio e fai girare. Scusa Giulio, scusa un attimo, Claudio 2025, quella cosa, chissà se sono vivo ancora. Non ho capito. Quell'interrogativo di avanti ieri, stavo guardando le cartacce, 2025. E allora tu l'hai fatta dopo di me, perché a me mi scade nel 2024. Sì, probabile, ma tieni presente che io ho fatto in seguito la conversione, capito, del nominativo, quindi è quello che ha cambiato tutto. Poi per l'altro interrogativo, sì, è illegale fuori dalle frequenze nostre, se qua si trasmette in digitale poi non ne frega niente a nessuno, perché tanto sono frequenze libere, quindi di qua puoi trasmettere anche in digitale, no? Che gliene frega, tanto oramai è libera. E dunque Gianfranco, quello che stava dicendo Claudio di Mulos è fattibile tranquillamente? Sì, se trovi qualcuno. A livello europeo ci sono i tedeschi che sotto il canale 23 hanno una rete packet da paura, quindi essendo, facendo parte della Germania, l'Olanda era come tra europea, presumo che sia tollerato e comunque che non dia fastidio in ogni caso. L'importante è il rispetto delle potenze, ecco, che siano 4 o 5 watt che sono, e rimanere nel limite della canalizzazione assegnata agli apparecchi liberi, perché oramai sono apparecchi liberi. Sempre con le caratteristiche europee, tra virgolette, giusto per non pensare di poter utilizzare altra roba. Ok, ho capito già qua. Vediamo un po', adesso voglio chiedere, intanto Franco si era assentato un attimino, se dico Franco ci sei, no? No, si era assentato, rientrerà. Sì, no, voglio chiedere, Claudio, spiegami un attimino, com'è che hai fatto? Tu hai fatto un'iscrizione con questo club, appunto, da come ti è venuta l'idea? Con quale principio sei partito per fare una cosa del genere? Il club Alfattango, Giulio, lo conosci una vita? Non è Alfattango, non di Marsala, nuovo è questo. Ok, ho capito Claudio, ho capito. Sì, come avrai ascoltato anche Gianfranco, stava dicendo che non c'è niente di illegale, naturalmente attenendosi sempre alle regole, ovviamente, con bassa potenza e senza esagerare e oltrepassare l'Europa. Questo è il concetto che ha detto Gianfranco. Confermi Gianfranco, è così? Va bene, se arriva l'Europa poi non è colpa nostra. No, io dice, mi ero riferito soprattutto alla canalizzazione che va rispettata, tutto lì, e alla potenza. Mentre invece per Claudio Di Muro volevo dire che quell'apparecchio lo conosco molto bene perché ce l'ho avuto. L'unico problema è quella batteria che pesa un raglio e che dentro inevitabilmente spesso sono consumate le celle. Era il suo, mi pare, claro. Le celle, quelle lì erano al nickel cadmio, quindi sono abbastanza... La radio è immortale, una radio che può durare altri 50 anni, il ricevitore professionale d'assoluto rispetto. Con quella lì ho parlato con l'Argentina, con la sua antenna, però è senza usare antenne lunghe, è formidabile veramente. È un apparecchio che dà 25 watt massimo quando la batteria è carica, ovviamente, e bisogna saperlo usare anche. Tutto lì, e c'è un altro apparecchio, qua sto guardando sul vero, stanno andando al prezzo folle di 1.136 euro, però è una follia, ovviamente, in realtà ne vale 200-250. Però l'hanno annullato il terzo lotto, se no l'hanno già 3-0. Una vergogna, fa caridai. No, non le guardo più io, partite della Juve, non le guardo più. No, ho capito già, però tu hai collegato l'Argentina con quella antennina sua, ma naturalmente nella posizione dove ti trovi tu, perché sempre è subordinato alla posizione dove si trova l'interlocutore, chiaramente. Se tu sei dove sono io, non credo che riusciresti ad arrivare in Argentina. Magari dove sei tu è più facile, tanto è vero, tu mi dici sempre che senti molta propagazione, cosa che io qua, ad esempio, tante volte propagazione non ne sento, a meno che non salga veramente. Allora il discorso è diverso, ma lì dove sei tu c'è un'ottima ricezione, data l'altura, eccetera, eccetera. Questo è un altro discorso. Confermi che è così? Sì, non è che vada, che in 10 metri possa andare tutti i giorni. C'era una chiamata in DX, le ho risposto, le ho risposto. Capito. Poi se fortuna, se eccetera, comunque nonostante la bassa potenza ci è arrivato tranquilla, e l'antenna ci è arrivato perfettamente. Quindi è un apparato militare, c'è anche lo schienale, volendo, però era un apparato in dotazione da ISAS, no? Service Air Squadron, che in inglese poi viene definito il reggimento, hanno fatto tanti film. E quello lì praticamente era un apparato che portavano loro nella guerra delle Falkland, non so se tra le cose di Giulio, che usavano per il collegamento tra quelle squadre lì a terra che andavano a spiare gli argentini e le navi che effettuavano poi i vari combattimenti o cannoneggiamenti o come preferisci le questioni tattiche loro, dai. Non è criptata purtroppo, però essendo degli anni 70 normale, ancora non c'erano gli apparati di oggi tutti con cripto. A chi tocca? Roberto, vediamo. Sì, riprendo io, però volevo far riprendere a Franco, se ha chiuso col telefono, che l'abbiamo sentito per due secondi e basta. Ci sei, Franco? Sì, capa, scusate, purtroppo ho avuto una bassa. No, mi stavo ascoltando. Sì, mi ricordo la guerra tra Inghilterra e Argentina, se non sbaglio. Così è, Gianfranco. Sì, che anche gli inglesi comunque hanno preso colpi. All'inizio hanno preso colpi, poi l'hanno riconquistata, hanno portato le cose. Sono stati eroici i veboli da guerra degli argentini, ma uno scudo, un'isoletta che non vale niente, è arrivato solo per puntiglia, è un vecchio dominio coloniale inglese, perché è attaccato all'Argentina a pochi chilometri, 30 miglia mi sembra che sia, o 30 chilometri, adesso non mi ricordo. Gli inglesi hanno fatto più che altro per puntiglia, perché non se ne valse le nuda di quella roba. Hanno avuto, diciamo, hanno predominato all'inizio perché gli inglesi sono rimasti fregati dai famosi missili francesi, ex soggetti, quelli lì, lanciati credo da aerei italiani, gli armati che c'erano in dotazione loro. Quindi li hanno sganciati e le hanno centrato un incrociatore, credo. Ci sono state parecchie vittime, infatti loro poi per rappresaglia le hanno silurato una grossissima nave da guerra, con tantissime vittime hanno fatto, per carità. Comunque vabbè, il finale era scontato e poi con la Thatcher c'era poco da scherzare lì. Riprendi Claudio Di Muros. Utilizzando sono agite, radio così bella e chiara non ne ho mai sentito lì con tutte le radio che hai, veramente esce molto bene. Sono qua comunque che mi sto facendo cose vai roba. Si è detto bene, gli argentini le chiamano Malvines, gli inglesi Falkland, ma è una cosa inutile, è uno scuglio, non ha nessun significato. Forse loro volevano gli inglesi come coso punto d'appoggio per la cosa meridionale vicino all'Antartide. Invece non lo so, comunque c'è morta un sacco di gente in quella lì, soprattutto argentini, poi alla fine è venuta l'ONU e ha cercato di pacificare la situazione. Infatti il detto di mano de Dios, quando Maradona aveva fatto la partita con l'Inghilterra, aveva segnato con la mano e nessuno se ne è accorto, l'Argentina aveva vinto il campionato del mondo proprio a seguito di, in semifinale ha battuto la coso, l'Inghilterra, e poi ha vinto la finale, non mi ricordo con chi era, se era con la Germania o chi. Infatti dicevano sempre mano de Dios, che dice Dio ha aiutato Maradona dopo tutti i morti che ci sono stati, perché era quasi in concomitanza quel problema con gli inglesi, poco prima c'è stata la guerra con gli inglesi e poi si sono trovati in campo ai mondiali Inghilterra contro l'Argentina. Claudio Di Muros, ma quella radio che stiamo usando cos'è? Valvolare? No Giulio, transistor. Ok, no, esce bene. Io lo sento molto bene, la verità. No, senza nessun problema, nonostante la distanza, eccetera, eccetera. Bene, bene, dai, che adesso un attimo, in questo momento il campanello, che scendo io ad aprire, dai, rientro subito. Lo riprendi, Giovra? Sì, ok. Tra l'altro se lo guardi sul lato superiore o inferiore, non ricordo, c'è una specie di vite, quello lì dovrebbe essere il quarto per la stabilità di frequenza, infatti è un apparecchio molto molto molto preciso come sintonia, tanto è vero che a scatti è il sistema proprio tipico militare. Non perché non si potessero permettere il VFO, ma perché devono essere così, no? Perché in combattimento, urti, colpi, eccetera, eccetera. Riprendi Franco, vediamo un po' se ha finito la telefonata. Sì, capo, grazie, ti ringrazio. Beh, sicuramente un valvolare vive un po' male da trasportare in guerra, sicuramente è meno stabile e più delicato. Tornando alla guerra, probabilmente vai a installare qualcosa di militare, non so, tipo pagine missilistiche, non lo so, ma sto dicendo una fesseria. Sì, anch'io comunque ho fatto i complimenti a Claudio perché, ripeto, anche con segnale basso riesco ad ascoltarlo veramente bene. Poi è entrato anche Luca, vediamo un po' se c'è ancora. Luca? Se lasciate magari un attimo di spazio, fate un ping pong allucinante. Io ti ho sentito perché siamo vicini, infatti ti ho rilanciato per quello. Riprendi Luca, buonasera, dai. No, voglio aggiornamenti sulla Juventus, io sto così, no. Per me, non per qualche amico, per me. Sempre 2-0. Che carità. Luca, io un 4 ore fa ti ho rilanciato, però non hai risposto, infatti ho detto forse si è allontanato perché hai detto che forse dovevi uscire. Scusa, comunque, se non ti abbiamo sentito, il Verona sta facendo 2-0 e hanno annullato anche il terzo gol, per dire. La Juve è inesistente, davanti, 0 assoluto. Di nuovo a te, Luca. Sai, quest'anno, già l'anno scorso, vabbè, stava già iniziando a scarseggiare, comunque quest'anno, vabbè, non è detto, ce ne sono partite. Ce ne sono, e vabbè, dai, vediamo un po' poi domani. L'Inter gioca domani, giusto? Come sta giocando? A Torino o a Verona? Manco non c'è bio io. Verona? A Verona, cla. A Verona, è Picenni. A questo gemmo, andiamo e andiamo. Lasciate perdere, oramai, quest'anno la Juve è troppo, quella troppo roba. Si fa l'Europa League, non la Champions. L'Europa League con le squadre di terza categoria può fare la Juventus. Sono qua comunque, a te ti arriva basso fra Claudio, a me supera Roberto, figurati, non ti ho capito cosa fa Roberto quando mi hai risposto, perché stava parlando Claudio e a fondo scala qua, 9 più 40, che sciogliezza, allucinante sigla. Oh, Claudio di Sassi, oggi mi arrivi anche più forte. Beh, io è a periodi, a giornate, capito? Sono giornate posso arrivare a Santiago 1, a giornate posso arrivare a Santiago 10. Una cosa che c'è troppo di bella, capisce, per quello andiamo e andiamo, certo. Ci deve essere propagazione, vediamo un po' se è entrato Giulio. No, sto usando quella che ti ho detto e c'è un pochino più di fatti, niente di che. E poi sto usando la G-Pol, capito, che gliene fotte 5 punti esce alla Mantova, gliene fotte per quello che vedi segnare più alto. Vai Claudietto. Un interrogativo a Claudio Di Muro, insomma, con la radio lì, che frequenza lavora? Da che frequenza a che frequenza? Certo, quindi dice che no, pensavo fosse molto più breve lo spazio di frequenza. Ma perché non l'hai vista quella radio? Mi sembra che è quella che ho dato io a Claudio e mi sembra che l'avevo fatta vedere quella radio militare. Sì che l'ho vista, però non sapevo le caratteristiche. È una bomba, non ce n'è per nessuno, no? Quella ce la mette dentro la vasca da bagno e usa la cornetta fuori con l'acqua. Può modulare lo stesso perché è stagna, capito? Eccezionale come radio, e lui è appassionato veramente. Una grandissima radio e sono contentissimo che la usa lui, che la fa andare, la costruisce, perché sono cose veramente molto molto preziose. Lugarie, volevo fare una prova con Roberto, ci sei? Luca, non c'è più Luca. Sempre così qua. Senti, lasciate spazio, ti dici la vita da bucinando a blu. Perché cuomane? Ascolta, vabbè, sai dove sono io fra, non c'è bisogno di dietro a te, no? Il mio segnale rispetto a quello di Roberto, che è più avanti di me, è molto più basso. Ma nei miei confronti? No, nei miei. No, spiegami, cioè, il tuo segnale rispetto a quello di Roberto? Che lui è molto più avanti di me, è più a vista con te, io non ti vedo, è molto più basso. No, lui arriva molto forte qua, perché ripeto, sicuramente, non dico che ci vedono le antenne, ma in realtà non siamo lontani. Noi non ci vediamo, siamo proprio uno da una parte e uno dall'altra. Ecco, quindi va benissimo così, non avevo dubbi. Il problema è che da Luca, che è ancora più distante di te, il mio segnale è più alto rispetto a quello di Roberto. Non lo so, vai, c'è un canale. Luca qua è quello che mi arriva più forte, uno dei più forti qua, e lui insieme a Tore mi sembra un altro che viene modula sul 20, sul 23. Sono io il più forte, cosa Luca? E anche tu sei fortissimo. Sì, da Talino, è anche mio uomo, non ti arriva forte, fra. Sì, ma non come Luca, per esempio, o Tore, o anche un altro, come si chiama, Luca Flipper, quello mi arriva fortissimo lo stesso. Scusate, poi mi ritiro, perché questi discorsi mi fanno male, ma come fate a fare comparazioni del genere? Ci siete tutti ammontonati, così le prove ci fanno da distanza, così ad esempio io sono fuori Sassari, quindi posso darvi dei controlli ben precisi, e come non fa testo il segnale di Claudio Di Muros, perché è come tra me e Roberto quando io ero a Carbonazzi, la stessa cosa. capito, quello è Mel, va più forte di tutti, non lo supererà mai nessuno, nel senso che è sul 40, capito, 9 più 40, il segnale più alto di quelli da Sassari è quello di Roberto che è 9,30, poi niente, poi non ce ne sono altri, gli altri sono tutti molto molto più bassi, però capito, non è che potete fare comparazioni essendo attaccati a lunga distanza, va bene, allora si possono fare prove. Va bene, se prendi, vediamo un po' se è rientrato Giulio, se non le prendi tu Roberto. Giulio sta frastimando la Juventus, ha detto non lo leveva, secondo me se la sta guardando, adesso facciamo rientrare, vediamo se Gianfranco ha fatto quello che doveva fare. Ci sei Gianfranco? Sì, ci sono, però sono anche da un'altra parte, ti chiamo dopo, sono qua in ascolto comunque. Sì, ok, vai Muros. Qua c'è lei, a me basta venire su 10 e vedi che già mi sente ogni tanto. Se lui sta sempre sul 40, sui canali alti, prima quando era Carbonati era sempre sul 10, che parlava con Giovanni, adesso io non sono più a Carbonati, sembra una coincidenza, ma comunque non l'ho sentito più neanche io, perché Alfieri arriva qua, è molto molto bene, arriva forse anche meglio di come ero nell'altra casa, capito? Va bene, ok, poi vediamo se Luca riprende, ciao Natali, buonasera anche a te, altrimenti riprende tu Franco. Sì, saluto anche io Natalino, buonasera anche a lui. Mi Dybala ha preso l'incrocio dei pali, sarebbe stato un bel gol, defilato dalla destra. Avanti Natalino. Avete parlato di due, non si è capito niente. Oh Natalino è uscito male, prova di nuovo Natalino. Controlla il microfono che c'è qualcosa in corto. Sta uscendo tutto per macchina Natalino, sì, fra, ha preso la traversa ma non l'ha messa dentro. Corre il garage per ribaccare il dai. Vai Roberto. Ha cercato l'Eurogol, se la faccia senza piazza non l'avrebbe fatto quel gol, ha cercato di tirare a girare. Sarebbe stato un bellissimo gol, però lì devi segnare, non devi spendere cose. No, io non sto manco guardando, non mi interessa. Ho fatto bene a non rinnovare Sky, per carità. Però c'è la carta, quella di mio genero, che me l'ha lasciata, quindi potevo guardarmela, ma non la sto guardando. Avanti Claudia, riprendi tu, salutami comunque a tutti, grazie per Luigi, contraccambia, dire che io non sono più chiaramente a Sassari, me lo sapeva già, ogni tanto entro giusto per salutarvi, ma non sono più attivo come prima, e soprattutto salutami a Babbo, a mamma e a Ottavio, riprendi. Sì Claudio, volevo farti una domanda, l'altra sera ti ho fatto chiamata, non so se fosse la tua l'antenna, quella che ti becchi proprio entrando nel paese, che si vede proprio bella frontale, è la tua l'antenna quella lì? Sì capo, chiedo scusa ancora, sì io venivo dall'altro paese lì, limitrofo dai, che tu sai, me l'ho beccata proprio davanti, quindi c'è una piazza, quindi già è quella, ho provato a fare chiamata ma sicuramente non eri in frequenza, quindi peccato ho detto dai. Claudio si è rotolato, vediamo se Giulio è rientrato. Giulio ci sei? Sì, anche Giulio. Poi non so se quell'apparato che sta usando adesso Claudio, se c'è anche tutte le bande, tipo FM, CW, però così. Lo sai tu Robè. Non credo che CW non ce l'avessero questi tipi di cose. Ci avrà la banda laterale la M basta, confermi Claudio Muro. No, deve essere una bella cosa, una bella radio da vedere, dai. Sì, dovrei averlo anch'io qualche tasto di miliardi vecchi di CW, dovrei averlo da qualche parte. Avanti Natalì. Natalì, non c'è chi ci è rimasto, bene, Luca o sennò Roberto, dai. Grazie Luca, ci sei. Senta, Claudio Di Muro, dimmi una cosa, l'attacco all'antenna è standard, quello attacco N o attacco PL? Ecco, sì, registrato. Dimmi la sigla che me la controllo. Com'è la sigla di quell'apparecchio? Ciao Fabrizio da questa parte. Ciao a tutti, ben sentiti. Ciao Claudio, ciao Franco, ciao Roberto. Roberto, devo fare un...